a farmi sentire. Ecco, un grande ritorno su Web Radio Luzzi. I nostri amici ragazzi, insomma, saranno molto contenti di questo ritorno. Abbiamo Colpo Grosso Channel con Felicetta. Prima mandiamo la sigla. Na na na na, riempimi di baci, cin cin cin cin, e channel channel channel, cin cin cin cin, e brindiamo insieme con lo champagne, cin cin cin cin cin. Felice, avevo finito così che i nostri condini più l'età. E mo arrivo. Un attimo. Cari amici, Lord, buona giornata, un nuovo palenzesto del Colpo Grosso Channel. Ecco a voi i programmi di questa settimana. Alle 4 e mezza Nicola Lambretti abbrittata e Amanda Knox in Il Tempo di Carestia, ogni buca e galleria. Alle 6 e mezza Reggie Forrester e Brooke Logan in Un sapimo più a chi ni cazzo namo fare. E super chissi, tenere pure ragione perché sono fatte pure i top di Studio di Beautiful. A Rigotto, come dice una Besignano, la signora Tenaglia in Tigno un marito, un giututo, per chi so, un fazzo cornuto. A Rinove, il presentatore Tenaglia con Cristiano Malgioglio in presentavo questo microfono. Di un cimbo, presentavo su microfono, te. Comunque. E di un cimboi che è bagascione assettata sopra i divani. Ma raccomando, sempre qui le mani alzate. O il word che avevo io, colpo con lo so channel. Ma ve ne vai, che avevo una pochina di straordinario. Che non mi cresce, serva. Arrivederci.